Ad alta voce, Paolo Piero Bon legge Il fondo della bottiglia di Georges Simenon, traduzione di Francesca Scala. Mi chiedo, disse Nora mentre finiva di vestirsi, se non farei meglio a ritelefonare a Lilla. Perché? Ma a quel punto dovrei telefonare anche a tutti gli altri. Chi mi fa davvero paura è la signora Pope. Loro sono i più isolati e lei si spaventa facilmente. Ci metterebbe un attimo ad avvisare la polizia di Nogales. Lasciamo perdere. Andiamo. Cedette il volante e lui gliene fu grato. Era un modo di dargli fiducia, nonostante fosse parecchio sfasato. Fino a pochi giorni prima le montagne erano grandi coni scuri e spelacchiati, sui quali sembrava non potesse più crescere neppure un ciuffo d'erba. I turisti e chiunque fosse arrivato da poco nella valle rimanevano sempre stupefatti e ogni volta era una specie di iniziazione. «Ma dov'è il bestiame?» chiedevano con una punta di scetticismo. Avevano sentito parlare delle migliaia di bovini dei rancher e invece intorno alle fattorie se ne vedeva appena qualche decina, soprattutto mucche da latte. Sono lassù. E cosa mangiano? Erba? Dal basso non si vedeva perché spuntava solo nei canyon che da lontano apparivano come strette fenditure. Ed ecco invece che in due giorni le pendici delle montagne rinverdivano, ricoprendosi di fiori gialli. Allora sì che si capiva l'amore che gli uomini come Pemberton nutrivano per quella valle. In genere bastavano pochi anni ai nuovi arrivati per esserne altrettanto entusiasti o addirittura infatuati. Cercherà di andar su. Era quella la prima idea che veniva in mente. Scalare il fianco della montagna. Presto però Donald si sarebbe reso conto che era impossibile e che oltretutto non sarebbe arrivato da nessuna parte. Sarebbe riuscito solo a insanguinarsi gambe e piedi e avrebbe rischiato di essere morso da un serpente a sonagli. La valle continuava a essere inondata dal sole, mentre metà delle montagne era già sotto la pioggia. Si sentiva il brontolio del fiume. Qualche macchina procedeva in quella direzione, mentre PM filava dritto verso sud, superando la casa dei Noland, poi quella degli Smiley. Era la zona più abitata, c'erano campi curati e lindi come prati, stalle e recinti per il bestiame. Di sicuro Donald si era spinto molto più in là, aveva superato i primi arroyos, i fiumiciattoli che, nascendo direttamente dalla montagna, durante i temporali si riempivano d'acqua soltanto per un'ora o due. «Una sigaretta?» Siccome guidava, gliela accese lei e gliela mise fra le labbra. «Sa andare a cavallo?» «Non lo so». In casa avevamo una vecchia giumenta che mio padre attaccava per raggiungere Fairfield. Da bambini la cavalcavamo a pelo, nel prato. Quella era la prima volta che parlava a Nora della sua infanzia. E del resto neanche lei gli aveva mai parlato della propria. Chi è che gli ha telefonato da Los Angeles? Nostra sorella Emily. È sposata? No, lavora. Se la cava benissimo. Doveva guidare piano perché la strada era dissestata, inframmezzata da enormi pozzanghere e da banchi di sabbia in cui le ruote slittavano. Non avevano ancora percorso 5 miglia che il temporale fu su di loro, preceduto da una tempesta di vento. «Vado avanti?» «Sì, che avessero avuto la stessa idea. Nessuno dei due pensava che Donald avrebbe bussato alla porta di uno dei loro amici. Al contrario, da quella parte c'era l'aereo di Caddy, da cui Donald doveva essere attratto. La vera questione era capire se era capace di pilotarlo. In che reparto era arruolato durante la guerra, lo sai? No, da Emily ho saputo soltanto che era nel Pacifico. Più avanti, in un punto in cui la pianura si allargava, Caddy aveva irrigato la valle con estrema cura. Vi coltivava cotone e patate. La prima raccolta di patate era appena stata fatta. A giorni avrebbero preparato la successiva, perché ce n'era un'altra in agosto e ancora una in novembre. un anno era riuscito a ricavare, soltanto dalle patate, $500,000. In certe stagioni aveva bisogno di braccianti, fino a 200 o 300, a seconda dei momenti. Faceva arrivare camion carichi di messicani o neri, intere famiglie, dal momento che le donne gli erano utili quanto gli uomini. Li ammassava nelle baracche che aveva fatto costruire lungo il margine dei campi. Raramente qualcuno si spingeva fin là. Quella era in qualche modo la parte reietta della valle, in un certo senso la sua vergogna. Pemberton sosteneva che l'unica attività a cui poteva dedicarsi un gentleman era l'allevamento del bestiame, ma Caddy se ne infischiava di essere un gentleman. Se non verso quelle baracche brulicanti di gente. Passarono davanti alle rimesse dove sembravano essersi arenati due grossi furgoni. Fecero fatica ad attraversare un'enorme pozzanghera più profonda delle altre, mentre dei bambini negri li stavano a guardare, in piedi, immobili sotto la pioggia che cadeva fitta, con i vestiti appiccicati alla pelle. Anche le donne si affacciavano alla porta delle baracche per guardarli passare. Nei campi di cotone gli uomini lavoravano in file ordinate. C'erano tetti di lamiera ondulata, tubi da cui usciva del fumo e da quel villaggio improvvisato esalava un acre odore di corpi. Non abbiamo nessuna possibilità di trovarlo. Chissà se Donald era così privo di dignità da venire a cercare rifugio in una di quelle capanne. Chi ci abitava era più ricco di lui. Sia i negri sia i messicani, nei periodi di lavoro intenso, potevano arrivare a guadagnare fino a $30 o $40 al giorno. E anche le donne venivano pagate. Certe sere si giocavano agguerritissime partite a dadi con tanto di coltelli a portata di mano e le risse scoppiavano con tale frequenza che i poliziotti di pattuglia ormai conoscevano la strada a menadito. Caddy era lì, sulla sua jeep. Un Caddy diverso dal giorno prima. Il Caddy negriero, come si definiva lui scherzosamente, con la barba incolta e un vecchio casco coloniale in testa. PM fermò la macchina vicino alla sua. «Sta cercando il suo amico?» Il suo tono non era propriamente aggressivo, ma neppure cordiale. «Mi piacerebbe trovarlo dopo quello che è successo ieri sera. Eravamo tutti ubriachi.» «Sì, parecchio. Non l'ha visto?» «Io no, ma mia moglie ha sentito dei rumori. Ha visto degli animali fuggire, come se qualcuno li avesse spaventati. Le ho lasciato una pistola carica.» «Non è armato. Un uomo non ha bisogno di esserlo per avere la meglio su una donna.» «Senta, Caddy, so tutto.» «Che cosa sa? Adesso vorrà farmi credere che non è pericoloso, eh?» E Caddy, masticando il suo sigaro, senza scendere dalla jeep. «Vede, PM, non mi piacciono tanto i nostri connazionali che gironzolano lungo il confine. Quelli che vengono dall'altra parte lo sappiamo bene chi sono. Dei disgraziati in cerca di lavoro, sedotti dal miraggio dei dollari. Per loro ho sempre pronta una scatoletta di sardine e una birra. Alcuni li ho perfino presi a lavorare nei miei campi per diversi giorni prima che si rimettessero in cammino. Gli americani che cercano di raggiungere il Messico, invece, sono un'altra storia. Mi capisce, vero?» Tutti, ovviamente, avevano avuto il tempo di riflettere sull'incidente del giorno prima. «A Yuma c'è un penitenziario da cui si evade con troppa facilità. A Florence c'è una prigione e tutti là dentro hanno sentito parlare della valle. Poco fa ho incontrato Badger.» PM si sforzò di restare impassibile. Badger era il capo di una delle pattuglie di frontiera, una di quelle appunto che giravano sempre con due cavalli sellati a rimorchio. «È bloccato su questa sponda del fiume. Starà con noi nella valle per qualche giorno. Non gli ho raccontato niente perché la cosa non mi riguarda, ma gli ho consigliato di tenere gli occhi aperti.» La parola «occhi» gli fece pensare all'occhio nero di PM e aggiunse: «A proposito, sul suo avrebbe fatto bene a mettere una bella bistecca di manzo sanguinolenta. È un rimedio infallibile.» Lo so per esperienza. Non era una persona cattiva. PM aveva sempre avuto buoni rapporti con lui e una volta lo aveva persino ricevuto in ufficio per fornirgli una consulenza sull'affitto dei suoi campi. Quell'atteggiamento un po' burbero era più che altro una posa. Ci teneva a essere considerato un duro. Vi va di venire a casa per un bicchiere? No, grazie. Volete che vi dica cosa penso del ragazzo? Esagitato com'era, avrà voluto attraversare il fiume a tutti i costi e sarà annegato. Mentre parlava, doveva avere un secondo fine perché guardava fisso PM, ma lui rimase imperterrito. Arrivederci, Caddy. Arrivederci. Scommetto che vi toccherà aspettare un'ora o due davanti al Josephine prima di poter rientrare. E in effetti fu così. Josephine era il nome di uno degli arroyos che scendevano a precipizio dalla montagna. Tagliava la valle per poi andare a gettarsi nel Santa Cruz. Il suo letto pietroso era in fortissima pendenza. Al minimo temporale, l'acqua precipitava giù con tanta forza da travolgere qualunque macchina si arrischiasse a guardarlo. Lui e Nora non potevano far altro che restare nell'auto ad aspettare, mentre i finestrini da un lato si appannavano e dall'altro grondavano d'acqua e qualche refolo d'aria fresca si mescolava insidioso all'atmosfera calda e umida dell'abitacolo. Avrebbe potuto rivolgergli dei rimproveri. PM era consapevole di meritarseli, quali che fossero, e li avrebbe accettati a capochino. Lei invece girò la manopola della radio che trasmetteva le canzoni messicane di Nogales. Non si sentiva in torto solo nei confronti di Nora, ma anche verso Donald. Provava un confuso senso di colpa. Era molto abbattuto, molto fiacco. La birra che aveva bevuto appena si era alzato aveva esaurito il suo effetto e adesso si sentiva di nuovo male. Caddy, senza saperlo, lo aveva ferito trattandolo in quella maniera. PM non ce l'aveva con lui. Era in uno di quei momenti in cui chiederesti scusa al mondo intero. Per esempio, all'improvviso, capì che cosa aveva voluto dire Nora quando aveva parlato del modo in cui si guardavano lui e Donald. Un modo in cui solo due fratelli si guardano. Aveva avuto il tatto di non specificarlo, ma significava che si guardavano con un odio che esiste solo fra consanguinei. In realtà lui non odiava Donald. Non era vero. Quando erano piccoli, gli voleva bene. E spesso in seguito aveva pensato di aiutarlo. Se non l'aveva fatto, era stato perché erano troppo lontani l'uno dall'altro, o perché forse Donald non avrebbe capito. Si sarebbe offeso. Emily, che era intelligente, avrebbe dovuto intuirlo anziché giudicarlo con tanta severità, perché era chiaro che lo aveva giudicato severamente e che lo reputava un uomo dal cuore duro, un ambizioso pronto a sacrificare persino la famiglia. Le cose erano molto più semplici. Forse Nora lo aveva appena capito e forse aveva pietà di lui. Ma neanche questo voleva. Non lo ammirava? Pazienza. In fin dei conti, altri prima di lui avevano percorso la sua stessa strada, ma che perlomeno gli venissero riconosciuti i suoi meriti e soprattutto la sua buona fede. Era deciso a non andare a letto quella notte. Avrebbe continuato a cercare suo fratello. Si sentiva responsabile per lui di fronte a Mildred e ai figli. Si rendeva conto che le sue ricerche in macchina sarebbero state infruttuose. Doveva tornare lì a cavallo, battere la zona in lungo e in largo, chiamare Donald a perdifiato. Doveva evitare a tutti i costi che le previsioni di Caddy si avverassero o che Badger mettesse le mani sul fuggiasco. Badger era un uomo che sapeva il fatto suo e gli sarebbero bastati 5 minuti per rivoltare come un calzino uno come Donald. «A cosa pensi?» chiese, sentendosi ad un tratto a disagio per il silenzio della moglie. «A mio fratello, che è stato ucciso durante la guerra. Non è la stessa cosa. È stato fucilato dai tedeschi, dai giapponesi, dagli americani per aver disertato. Era un ragazzo straordinario, intelligentissimo, un artista. Viveva a New York, nel Greenwich Village. All'inizio ha cercato di farsi riformare. Aveva paura. Sapeva che avrebbe avuto paura. Non era colpa sua. Era più forte di lui. Lo hanno fucilato perché lo prevedeva la legge e non potevano agire diversamente. Tacquero. In meno di una giornata avevano fatto più progressi nella conoscenza reciproca di quanti non ne avessero fatti in 3 anni di vita in comune. Sai, Lilla, era lei che riprendeva la conversazione con la stessa voce assorta mentre il Josephine scorreva ai loro piedi. È molto infelice. Non ama suo marito. Voglio dire che con lui non ha mai provato piacere. Lo so solo io. Me l'ha detto lei un giorno che avevamo bevuto. PM aveva sempre considerato i Nolan quasi una coppia modello. Lo colma di attenzioni, obiettò PM, perché rosa dai rimorsi. Si rende conto che è l'uomo migliore del mondo e si vergogna di tradirlo. PM sobbalzò. Di qualsiasi altra donna della valle avrebbe potuto pensare che tradisse il marito, ma non di Lil Noland. È come un impulso irrefrenabile, tu non puoi capire. Ci sono donne che all'improvviso hanno bisogno di bere. Prendi Resnick, per esempio. Per un certo periodo aveva abitato nella valle, era stato loro amico, era un tipo tranquillo, quasi timido e così pieno di scrupoli da risultare ridicolo. Un paio di volte all'anno, non di più, si metteva a bere, andava a fare bisbocce e per 2-3 settimane i figli e la moglie non avevano sue notizie finché un bel mattino non si ritrovava all'altro capo degli Stati Uniti. Un giorno, durante una di quelle crisi, si era imbarcato a Los Angeles e si era risvegliato a Panama. Ancora qualche ora e sarebbe stato in viaggio verso la Cina. E sua madre? Era un po' così anche lei? Di tanto in tanto Lil ha bisogno di un uomo, uno qualsiasi. È ancora abbastanza lucida da sceglierselo, capace di tenere la bocca chiusa. Chi, per esempio? Uno dei cowboy. È più facile. E dopo non corre il rischio che si illudano di avere dei diritti su di lei. Tipi come Raoul. Raoul è stato uno di loro. Perché gli stava dicendo quelle cose? E perché proprio oggi, che era così confuso? Ebbe un vago sospetto. La guardò di sbieco, nell'auto che sembrava un acquario. Non è che anche lei faceva lo stesso? Lil ne soffre molto. Stava per chiederle: «E tu?» Perché in quel momento aveva la sensazione di poter capire tutto. Non le avrebbe rivolto nessun rimprovero. Non subito, almeno. Ma si trattenne per una sorta di vigliaccheria. Era madido di sudore, si sentiva la testa vuota. I continui lampi gli ferivano gli occhi e siccome ogni tuono faceva gracchiare la radio, si limitò a mormorare: «Ti dispiacerebbe spegnere?» Non era una giornata come le altre. Decisamente no, non lo era. Gli veniva da piangere.